È il momento di leggere tra le righe. Linea e microfono ad Adelaide Spallino. Salve a tutti, sono Adelaide Spallino e benvenuti a questa prima puntata della nuova serie di Tra le righe, la rubrica letteraria in online su Radio Libriamoci Web ogni settimana. Partiamo oggi con un libro di Paola Ducci, sceneggiatrice e autrice di testi sia per Rai che per Mediaset, che ha già pubblicato una raccolta di racconti. Non ho mai detto che sarei rimasta fino alla fine e Il crudele si vende bene. Il romanzo di cui parliamo è Charlotte Sometimes, titolo ispirato ad una bellissima e famosa canzone dei Cure, canzone che sembra dare il ritmo alla narrazione del libro. Una storia tra il visionario e il reale, dove si incrociano le vite dei personaggi, ognuno con il proprio carico di dolori, illusioni e speranze faticosamente tenute in vita. La storia prende vita appunto in una città della provincia italiana, dove una ragazza scompare lasciando un paio di anfibi e un chiodo, uno di quei giubbotti corti di pelle che andava molto in voga negli anni 80, e infatti la storia è ambientata nel 1981. Il suo ragazzo, attonito da questa scomparsa, comincia a cercarla. Una storia drammaticamente strana, dai contorni non definiti perché avvolta da una fitta coltre di mistero, come fitta è la nebbia attraverso cui si intravede il muro di Berlino in una fredda notte di novembre, perché in questa storia c'entra pure il muro di Berlino. A imbattersi in questo mistero un commissario di polizia che si ritrova il caso sulla sua scrivania proprio il primo giorno di lavoro dopo il periodo di lutto per la morte della moglie. Il racconto della trama finisce qui. Charlotte Sometimes è un romanzo della narrazione scevra da orpelli vari, contraddistinta spesso da frasi brevi interrotte da punti che non ne smorzano la tensione ma anzi la sottolineano. Paola Ducci in questo romanzo mette tutta la sua esperienza nel campo della scrittura creativa, infatti tiene dei corsi di letteratura di genere, noir e giallo, e riesce così a disegnare immagini nitide e personaggi vividi e pieni di umanità. Charlotte Sometimes di Paola Ducci, pubblicato da Cult Editori, e noi ci sentiamo alla prossima. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.